Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Sono Pietro e Francesca. Questa, ahimè, è la nostra ultima puntata, non di Lucciole nelle tenebre naturalmente, ma del, diciamo, del nostro mese in cui siamo la nostra stati... magnifica coppia. La nostra bellissima coppia che questo mese vi ha regalato degli approfondimenti, in particolare sulla politica e sui rapporti, o meglio, tra la politica e la mafia. E ci spiace molto che sia la nostra ultima puntata, anche perché di cose da dire ne avremo a bizzeffe. Solo questa settimana ne sono successe talmente tante che dovremmo dedicarci forse 2 anni al tema politica e mafia. Diciamo che in questa puntata vorremmo provare a riassumervi gli ultimi avvenimenti e così darvi un saluto finale. Un po' triste, però va bene. Dai, cerchiamo di dare del movimento a tutto ciò raccontando gli ultimi eventi. Beh, partiamo dalla notizia che ci rende più felici di tutte. No, non questo. Insomma, Silvio Berlusconi è finalmente decaduto dopo 19 anni in Parlamento dalla carica di senatore. E dunque è un... La Fra non riesce a trattenere l'entusiasmo, ma diciamo che appunto non è più senatore. Silvio Berlusconi, che anche su questo naturalmente ci sarebbe da parlare delle ore, però sapete tutti dei presunti rapporti che ha avuto con Cosa Nostra, con mediatore Marcello Dell'Utri. E invece passando a notizie più antiche nella settimana, perché è successo tutta questa settimana, parliamo della sentenza Minotauro. C'è stato il primo grado del processo Minotauro, che è un processo che si sta svolgendo in Piemonte, che vede invischiati i politici locali con l'Ndrangheta, un processo che comprendeva 315 imputati e di cui sono stati dichiarati colpevole, Pietro, 37, aiutami. 37 condanne, di cui 23 per mafia, venerdì scorso, il 22 novembre. È molto interessante questo processo anche per comunque questo avvio che si dà anche al nord di occhio di riguardo a queste questioni e un approccio che i giudici devono imparare a avere anche al nord rispetto appunto al fenomeno dell'Ndrangheta, della mafia. Sì, che ovviamente non è più... circoscritto naturalmente alle regioni, del sud, anzi la 'Ndrangheta è come le altre mafie, si è spostata dove ovviamente c'era la più ricchezza e diciamo che è la prima volta che viene sancito a livello giudiziario la presenza della 'Ndrangheta in Piemonte, quindi è un dato importantissimo. Il processo prevedeva, cioè nel processo appunto si analizzano varie situazioni tra cui appunto voto di scambio, politici che appunto sono scesi a patto con 'Ndrangheta e boss importanti della 'Ndrangheta, politici di tutti i partiti senza appunto una preferenza di colore, sfortunatamente direi. Ma possiamo passare avanti a una seconda. Ecco, direi l'ultimo inciso, per esempio Nevio Corral, che era l'ex sindaco di Leni, indagato in questo processo, è stato condannato per 10 anni. Quindi insomma la politica sancisce perfettamente quello che cercavamo di dirvi in queste puntate, come i rapporti tra mafia e politica siano purtroppo presenti nel nostro paese. Passiamo oltre, passiamo ad un'altra notizia e direi che potremmo passare alla... Schifani, l'ex presidente del Senato, è indagato, diciamo, per concorso esterno in associazione mafiosa e il GIP ha, diciamo, chiesto 2 mesi in più per indagare su questa vicenda. Quindi un altro politico, un altro indagato per concorso esterno. E ancora c'è naturalmente la trattativa Stato-Mafia con Giorgio Napolitano, che torna protagonista. Il nostro amato Presidente della Repubblica che, diciamo, in questa settimana non si è ben capito. È in un impasse. Perché i PM avevano richiesto la sua testimonianza nel processo. Ricordiamo un processo che vede coinvolti uomini dello Stato, apparati dello Stato meglio, e la mafia per le vicende dei primi anni 90 relative a una trattativa ormai acclarata tra appunto Cosa Nostra e parti dello Stato per una sorta di do ut des. E Napolitano è stato chiamato appunto a testimoniare su questa vicenda. All'inizio della settimana sembrava che aveva mandato una lettera in cui diceva che così venivano violate le prerogative del capo dello Stato, bla bla bla. Poi ha un po' ritrattato e sembra che alla fine vada a testimoniare. Insomma, rimaniamo tutti col fiato sospeso. E certo è che ovviamente una menzione bisogna fare anche ai PM di Palermo, che stanno vivendo delle ore terribili, soprattutto Nino Di Matteo, che continua a ricevere minacce da Totò Riina, appunto, della settimana, minacciato da Totò Riina dal carcere, che ha esplicitamente detto che lo vuole morto, insomma. Quindi sì, l'ha fatto sapere un suo compagno di cella. Pensa che fortuna essere compagno di cella di Totò Riina. È un'esperienza bellissima, ma insomma, diciamo che anche qua la politica sta davvero facendo sentire però poco la propria voce, la propria vicinanza a questi magistrati che ogni giorno rischiano la vita per scoprire un pezzetto di verità della storia di questo paese. Un'altra notizia che appunto legata ai rapporti tra politica e mafia è le dimissioni del vice sindaco di Verona Giacino, che insomma, diciamo che nella ristrutturazione di un attico vi è una sorta l'ombra dell''ndrangheta, un attico che va fatto ristrutturare. Si parla nella ditta che ristrutturava c'era l'ex moglie di Papalia, insomma anche là la vicenda non è ben chiara e ci sono delle indagini in corso della presenza dell''ndrangheta in Veneto. Quindi il quadro, insomma, è sempre piuttosto inquietante. Lasciamo un attimo di pausa e ripresa con una canzone. Volentieri, che leggerai tu io, perché è impronunciabile. Beh, è solo francese, caro. Comunque va bene. Un chauve-souris è la storia di un pipistrello che si innamora, anzi di una pipistrella, che si innamora di un di un ombrello nero. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une pelle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allaient se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Ma visto che oggi sì, ci sentiamo particolarmente melensi, vogliamo lasciarvi con un po' di chicche positive, diciamo. Chicche positive, mi piace chiamarle così. No, insomma, ovviamente noi facendo Libera non crediamo che in questa Italia ci sia solo del marcio e vorremmo, diciamo, parlarvi delle campagne che Libera ha lanciato quest'anno e che in parte riguardano anche la politica, anzi sicuramente riguardano la politica, e sono due campagne principali. Sì, la prima coinvolge pienamente la politica, cioè proprio, anzi è stata lanciata proprio per un appello ai politici per renderli responsabili su alcuni punti che sono stati richiesti e firmati da numerosi cittadini, non mi ricordo più a quante firme siamo. Siamo più a 315.000 persone e l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a 500.000. Ecco, e questa è la campagna Riparte il Futuro, di cui abbiamo già parlato varie volte in questo programma, la campagna Riparte il Futuro appunto pone degli obiettivi, dei punti salienti che si richiedono ai politici firmatari di questa campagna, che hanno portato all'approvazione del 416 ter a maggio, mi pare. Sì, legge che appunto ha come punto focale la corruzione, ma che un cambiamento alla legge sulla corruzione, ma che deve essere comunque migliorato e si auspica venga migliorato. Sì, appunto il 416 ter, ricordiamo che è l'articolo sul voto di scambio tra politici e mafiosi, e appunto il cambiamento alla legge sulla corruzione, che insomma la sappiamo che la corruzione è uno degli annosi problemi italiani e in particolare legata all'autoriciclaggio che non è previsto o al falso in bilancio, tutto depenalizzato dal governo Berlusconi. Casualmente. Un'altra campagna di Libera è invece Miseria Ladra, che è appunto un pochino più trasversale forse, ma che a me sembra coinvolga comunque, cioè porti comunque la politica in primo piano e una presa di posizione forte da parte di una futura auspicabile politica. Assolutamente, perché la campagna è stata lanciata per appunto combattere il problema della povertà sia economica, ovviamente legata alla crisi e alla recessione che stiamo subendo tutti, ma anche alla povertà culturale, riprendendo le parole anche di Don Luigi, che sembra presente in Italia quest'oggi. La campagna appunto è stata lanciata perché, ad esempio, per citare qualche numero, nel 2012 9.563.000 di italiani hanno sofferto di povertà relativa, in percentuale sono più o meno il 16%, che vivono al di sotto dei 506 euro mensili, quindi sotto, diciamo, la soglia di dignità considerabile per una persona allo stato attuale, mentre la povertà assoluta ha colpito 4.800.000 di italiani. Quindi possiamo dire che quasi un italiano su quattro viene calpestata la dignità in questo paese. Anche contrariamente alla Costituzione, all'articolo 36. Appunto. E poi fra l'altro Miseria Ladra è molto interessante perché comunque allarga poi il punto di vista non solo appunto a una povertà strettamente economica, ma anche a problemi più ampi come per esempio quello di una miseria a livello culturale. È uno stimolo a una solidarietà reciproca che sicuramente può essere uno dei punti di partenza per un... impostazione diversa delle nostre vite, anche alla luce del fatto che, come è stato finora, non va. Certamente. Bene, vi lasciamo con Wanderlust King dei Gogol Bordello, che verranno in concerto sabato a Bologna e noi ci saremo. Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. Ocean. I saw new history of a time. New history of da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da is moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys, and what a nut! Yeah, why not? Oh, well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Отдаешь суть, я циркач, ну так что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never still in. I am a wanderlust king. Stay on the run. Wah! Let me out. Let me be gone. In the world, be the road sign. I so knew history of a time. Rubrica, rubrica, buffie. Eccoci. Ed era di nuovo. L'ultima volta. L'ultima volta sentirete la nostra voce cantare questo terribile jingle. Che però a noi piace tanto. Non abbiamo ancora capito perché. Allora, quest'oggi vogliamo parlarvi nella rubrica Buffier del film di Piff che uscirà nelle sale proprio quest'oggi, venerdì 29 novembre. E dal titolo La mafia uccide solo d'estate. Capirete bene che ci coinvolge, piace particolarmente tanto. Piff, insomma, lo conosciamo tutti, prima è stato Iena nel programma di Italia 1, poi ha condotto Il Testimone e ha con tantissime inchieste di vario genere molto divertenti e molto interessanti, e, ma soprattutto è prima di tutto siciliano. Sì. E in quanto siciliano da sempre ha sentito diciamo vicino a sé il problema della mafia. Come si deduce bene dal film, che non è una biografia, ma almeno ci lascia passare un po' questo messaggio quasi. Sì, sì, esattamente. Infatti lui stesso è il protagonista del film insieme a Cristina Capotondi. E appunto il film racconta la storia di lui fin da piccolo, che poi cresce, e anzi fin dalla nascita. E come avete sentito nella clip iniziale, il primo rapporto che ha con la mafia ce l'ha il giorno in cui è stato concepito. Quindi una vita da sempre segnata dalla mafia. Sì, totalmente invischiata, intricata sì, con, sì, con la mafia. Mafia sempre presente come in realtà... sfondo nella Palermo, sì. Nella bellissima Palermo. E appunto poi racconta tutta la sua vita, della sua passione per il giornalismo. Il suo amore per questa donna, per la Capotondi. E però fa vedere allo stesso tempo tutte le vicende storiche che succedono. Infatti è ambientato prima delle stragi del generale dalla chiesa di La Torre di nel massimo Borsellino. Apice di Totorina e nel massimo apice di Cosa Nostra, appunto. Di Cosa Nostra e appunto la vita sconvolta degli italiani, dei siciliani in quegli anni, e di come appunto la mafia arrivi a sconvolgere anche la vita di un uomo qualunque, quale può essere Arturo, che è il protagonista di questo film. Quindi insomma noi andremo a vedere questo film, il consiglio che vi diamo è andate a vederlo anche voi, andarlo a vedere, che è sicuramente anche molto divertente. Sì, la capacità di Piffa infatti è anche questa probabilmente, cioè anzi senza probabilmente, che comunque ti tiene coinvolto fino alla fine, perché ti racconta tutto con un sorriso, con una battuta sempre pronta, e poi lui come personaggio che... Assolutamente, va bene, noi vi salutiamo e insomma vogliamo, questa è la nostra ultima puntata insieme e sicuramente ce ne saranno altre nel futuro, però è un'esperienza che ci è piaciuta molto e fra noi ci vedremo sempre comunque. Un saluto anche alla nostra Flavia, che è stata un prezioso tecnico in queste puntate. Fai un saluto al microfono, Flavia. Ciao. Bellissimo. E niente, l'augurio, facciamo qualche augurio, qualche raccomandazione. Non è Natale, sai, qualche, no, però qualche una bacchettata morale finale. No, insomma, pensala, dilla. No, quel mio consiglio personale è, diciamo, stiamo attenti a chi votiamo per concludere diciamo, l'appuntamento con la politica, nel senso che molto spesso vediamo queste figure dei politici come qualcosa di separato, di strano, di però siamo noi stessi poi i responsabili di chi sta al potere, di chi è la classe dirigente. Sì, chiudendo con una frase arcifamosa, Borsellino diceva che la più potente arma contro la mafia era la matita tenuta dal cittadino nella cabina elettorale. E con questa possiamo salutarvi. Madonna, finale col botto. Va bene, vi lasciamo con vuoi lanciarla tu, Francesca? Vi lasciamo con un splendido Billie Holiday, Blue Moon. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. You knew just what I was there for.